State ascoltando Popolare Network. Futuro dell'Italia, quello che stiamo vedendo a Rosarno, 0233 001 001, diretta @popolarenetwork.it, oppure gli sms al 331 62 14 013. Gli abbiamo dato pane, gli abbiamo dato lavoro, e loro che fanno? Ci distruggono il paese, se ne devono andare. Noi vogliamo sapere perché loro sparare gli africani. Quando africani lavoro come loro prende 25, quando gli italiani lavoro come loro prende 40 euro. Sono in pessime condizioni, però cioè non giustifica quello che hanno fatto, che stanno facendo. Questo non abbiamo casa, non abbiamo le coda, mangiate male, viviamo male, dormite male, e poi loro vogliono ancora sparare gli africani, che quello noi abbiamo fatto a loro. Siamo in male condizione con questa gentaglia brutta e schifosa. Da una parte centinaia di schiavi pagati la metà rispetto ad un italiano, che vivono in condizioni spaventose, stanchi di sopportare le angherie del latifondista o del capo dell'andrangheta. Dall'altra, gli italiani che convivono con quel disagio, che pensano di utilizzare altri uomini come bersagli da tiro a segno e che accettano le regole dell'andrangheta. Dunque, Rosarno è l'emblema dell'Italia? Questa è la domanda che vi poniamo questa sera nel microfono aperto di Popolare Network, 0233 001 001, diretta @popolarenetwork.it, o ancora gli sms al 331 62 14. Buonasera cari amici della Tela Sonora, benvenuti a questa prima puntata dell'anno nuovo 2010, quindi tanti auguri a tutti coloro che sempre hanno ascoltato Radio Alma, la Tela Sonora, al venerdì a partire dalle 20 fino alle 21 e anche auguri a coloro che si sono messi oggi per la prima volta all'ascolto di 101.9 FM Radio Alma. Siete in compagnia di Gabri T ai microfoni e la nostra regista Paola Grauso. Ciao Paola. Ciao. Ci hai fatto ascoltare un pezzo di Blechera. Wow, molto bello, mi piace tra l'altro. Voi sapete che la Tela Sonora è anche non soltanto poesia, quest'anno abbiamo un proposito, quello di portare avanti alcune emissioni, alcuni programmi particolari, tra cui Certi Sistemi e Cuore di Poesia di Massimo Di Martino, nonché Poesia Totale, sempre poesia di Max Ponte, e anche alcune puntate che parleranno e così avvicineranno un po' l'aspetto architettonico, quindi non soltanto poetico ma architettonico della città e quindi dell'essere umano, del corpo. Questa sera abbiamo due ospiti al telefono che contatteremo in ordine, quindi Michele Morando, nato a Verona nel 1978, un ragazzo giovane impegnato in un percorso eterogeneo e il cui, diciamo, unico filo conduttore è la sua esperienza di essere umano. Quindi questa direi che è una grande qualità, quella appunto di ricordarci che siamo prima di tutto esseri umani. E poi abbiamo invece un personaggio che quindi rientra nel campo architettonico, Mauro Lovi, con il suo progetto di Case Minime. Quindi ringraziamo Mauro per aver portato Case Minime, di cui poi vi parlerò un pochino più avanti quando lo avremo al telefono. E poi se ce la faccio vi volevo, così questo è il proposito, leggere ad ogni puntata del venerdì a partire dalle 20 una poesia di un libro edito dal Ponte del Sale. Il Ponte del Sale è una casa editrice molto piccola, piccolina, fondata da Marco Munaro e che annovera tra alcuni libri già pubblicati il libro A Giulè in dialetto di Anna Maria Farabi. Quindi un ringraziamento ad Anna Maria Farabi che è l'ideatrice di questo programma, quindi apriamo il 2010 ringraziando. Anna è stata operata, è stata in ospedale, quindi adesso si sta riprendendo, e ringraziamo anche Marco Munaro, che non siamo mai riusciti a intervistare, un po' perché è una persona molto schiva, molto anche umile, e un po' perché effettivamente abbiamo talmente poeti, talmente tanti sono i poeti che vogliono partecipare alla Della Sonora, che ci riesce difficile dare ascolto a tutti quanti. Quindi leggerò io un brano tratto da Dolore della Casa di Sebastiano Aglieco, un libro appunto edito da Il Ponte del Sale. Ancora due parole di Michele prima di averlo al telefono per dirvi come questo ragazzo già giovane abbia svariate esperienze espositive già nel suo curriculum vitae, e nel 2009 ha vinto il primo premio Garcia Lorca a Torino con la raccolta inedita di poesie Non avrei mai pensato di diventare, edito da Ibiscos Ulivieri. Poi tantissimi video, Pantarei, cortometraggi del 2000, Il continente sommerso, un altro cortometraggio del 2005, per terminare gli ultimi due del 2009, Cavie, che è un videoclip, e Mivar, video installazione del 2009. Tra le attività culturali abbiamo appunto ricordato la vincita del premio, e poi nel 2008-2009 è stato coautore del talk show culturale radiofonico Mai di Giovedì, in onda su Radio Verona, ed è infatti grazie a Radio Verona che sono entrata in contatto con Michele, nonché nel 2007-2008 invece ha vinto il secondo posto alla X Christmas Slam di poesia di Torino. E quindi ringraziamo Max Ponte, che presto sarà anche lui uno degli ospiti d'onore, perché parteciperà proprio con alcuni suoi pezzi al programma La Tela Sonora. Invece una minima presentazione, perché doverosa, per Case Minime. Case Minime, perché ho deciso innanzitutto di portare Case Minime a Radio Alma? Voi sapete che nel 2009 abbiamo iniziato questo approccio al tema dell'urbanistica, sotto, diciamo, l'ispirazione ricevuta tramite così la lettura, attraverso la lettura di un libro sull'urbanistica, l'urbanisme di Le Corbusier, dove appunto l'urbanista è paragonato un po' a un poeta, cioè la persona che riesce in qualche modo a capire quali sono le esigenze dell'essere umano e cercare di farlo vivere al meglio nella città. Noi crediamo che infatti la poesia sia un modo per superare certi ostacoli e Case Minime, quindi un progetto a cura di Mauro Lovi. È una cosa molto particolare perché se quando si apre il web voi andate a leggere, vedete una minima casetta, una casetta molto piccola, e poi c'è scritto questo: è la solida casa, è la solita cosa, sono le solite case, sono le solide cose. Case Minime infatti è un'opera corale, una città di minime case dipinte, non un lavoro sul simbolo della casa, realizzato su invito da artisti, pittori, scultori, architetti, fotografi, studenti, esordienti, professionisti. Insomma, ci sono tantissime persone che sempre si sono confrontati sul tema con questo diciamo prodotto di una piccola casa, quindi un manufatto artistico, una casa virtuale, un piccolo perimetro meditativo realizzato nei materiali, nei modi, nelle tecniche più svariate. Sono 69 i partecipanti da tutto il mondo, dalla Norvegia all'Inghilterra, dalla Germania all'Irlanda e alla Tunisia, oltre che ovviamente dall'Italia, e hanno dato vita al nucleo di una città di piccole case, la cosiddetta città di Case Minime, un laboratorio per progetti d'arte a responsabilità sociale. La città quindi sarà itinerante e aggregherà ad ogni evento artisti dei luoghi visitati. Sono previste per il prossimo anno diverse mostre, con un appuntamento speciale tra un anno con la città di Viareggio, perché qui l'esplosione del vagone cisterna alla stazione ha distrutto non solo una casa, ma addirittura una via, un quartiere. Voi ricordate di quel, insomma, di quell'incidente che costò appunto la vita a persone e distrusse gran parte delle case vicino alla stazione. Case Minime esprime una solidarietà alle vittime di questa tragedia, e parte delle risorse ricavate dalle attività intorno a Case Minime andranno alle vittime di questo disastro. Quindi Case Minime è stata paragonata a una brand mobile, nasce dal lavoro appunto di Mauro Lovi, col quale poi ci metteremo in contatto, con il gruppo di giovani artisti di pittura, tra parentesi, per il progetto 2009 sul tema della casa dipinta. Quindi voi sapete che l'Italia sta attraversando un periodo particolare per quanto riguarda alluvioni, disastri durante le feste, abbiamo visto di tutto alla TV, e sempre il tema della casa ci pareva importante per sottolineare appunto quanto l'affezione alla casa, al nostro centro, al nostro, se vogliamo, punto di partenza, per tante persone i terremoti, insomma, queste case sono state distrutte, quindi è stata distrutta una parte della loro vita. Quindi poi chiederemo a Mauro Lovi di leggersi un po' la sua benedizione, i suoi auguri che lui ha lasciato nel web, proprio rivolgendosi al nucleo della città di Case Minime realizzato nel prologo Lucchese, nello spazio quindi dello studio 14 di Via delle Conce. Trovo che sia un'idea eccezionale e a questo proposito ha sottoscritto anche dalla nostra redazione un articolo che è stato pubblicato su Domus, la rivista di architettura. Quindi direi questa sera abbiamo così, iniziamo questa nuova trasmissione, salutiamo Roberta, salutiamo Giorgia, salutiamo Alice, salutiamo Mario Gicci, salutiamo un po' anche Java e Sam e José, che sono i nostri angeli custodi. Quando ci sono dei problemi la radio va avanti lo stesso, anche se poi dietro le quinte succede di tutto. Ringraziamo Anna Maria Farabi e direi a questo punto, se siamo pronti, mettiamo un pezzo musicale, così io contatto Michele e ci facciamo raccontare un attimo la sua esperienza e il libro, l'ultimo libro che ha scritto. Regia, sei pronta? Dai, dimmi un po' qualcosa, Paola. No. Sorriso, e oggi è felice, c'ha un bel sorriso. Perché durante le ferie si è divertita e poi perché ha iniziato un nuovo lavoro, e quindi le facciamo tutti i nostri più cari auguri, perché Paola è una ragazza molto in gamba. Ricordiamoci che se non ci fosse Paola la tela sonora non esisterebbe. Basta con i complimenti, metti un pezzo musicale e io vado a chiamare Michele, restate con noi. cari amici, eccoci di nuovo con noi Michele Morando. Ciao Michele. Buonasera. Buonasera. Allora, buonasera. Ti ho già presentato ai nostri amici radioascoltatori, alla nostra regista, elencando le esperienze espositive, il video, parlando anche di Christmas Slam di poesia, quindi a Torino nel 2007-2008, che appunto hai raggiunto il secondo posto, ringraziando Max Ponte, ringraziando anche Mai di Giovedì in onda su Radio Verona, grazie appunto al quale sono riuscita a mettermi in contatto con te. Adesso ti cedo la parola, ci racconti un attimino qualcosa di te, ci leggi delle poesie e lasci un po' un messaggio in radio, visto che sei il primo poeta del 2010 che va in onda. Un onore. Certo, un onore e una responsabilità. Ok. Quindi mi presento, sono Michele Morando, okay. Abito a Verona. Mm-hmm. Sono un poeta abbastanza giovane, credo. Sì. Non sono solo poeta, nel senso che mi piace attraversare l'arte in ogni sua forma, se possibile. Ho scritto questo libro che si intitola Non avrei mai pensato di diventare, che ha vinto il premio Garcia Lorca a Torino l'anno scorso, uh-huh. Edizione 2008, e questo libro raccoglie poesie che vanno nell'arco di tempo di alcuni anni e che raccontano, diciamo, di questo percorso che sto facendo, che racchiude appunto le parole ma anche le immagini, anche se il libro ne è sprovvisto, sono solo poesie e anche molto brevi, ma le immagini, diciamo, che ci scorrono dentro. L'immagine e la parola sono sempre una cosa che vanno assieme, per quanto mi riguarda, uh-huh. Perché una modifica l'altra, la fa crescere, la crea o la distorce, o gli si dà un altro significato. Posso leggervi un paio di poesie estratte dal mio libro. Okay. Inizierei dalla prima, che mette le cose in chiaro, nel senso che da una precisa collocazione anche geografica di dove mi trovo, uh-huh. E di quello che è, diciamo, la quotidianità del vivere in una regione d'Italia, in un luogo, diciamo, che ha dei pregi e difetti come in tutto il mondo, però che, diciamo, in questo momento avrebbe bisogno di un attimo di scossa, di un attimo di vitalità. Uh-huh. Allora, la prima poesia si intitola Verona. Città per niente, città per nessuno, baleno di bellezza che sfugge da aspre situazioni, in convivi di dispiaceri, città di passaggio, città militare, io seguo mesto il suo funerale. Wow, funerario la cosa. Non vorrei, ecco, sì, nel senso. Lapidaria più che funeraria. Mm. Come? Lapidaria. Sì, sì, credo che a volte bisogna esserlo. Mm-hmm. Senza pietà, sono perfettamente d'accordo. Sì, a volte serve, bisogna dare un po' delle scosse, bisogna distruggere ma anche costruire, bisogna cercare di fare entrambe le cose. Spero in tutto il libro, il senso del libro sarebbe questo, sì, da una parte dire ok, cosa c'è che non va, cosa dobbiamo un po' sistemare di noi e della nostra vita, dall'altra però anche delle idee, e spero che leggendo il libro queste cose dal punto di vista prettamente esistenziale possano nascere, diciamo. Vado a leggere un'altra che ha senza titolo. Mai rispetto simmetria, se le incontro fuggo, l'inquietudine viva anche di questo ha bisogno, è un gran peccato posare sotto la propria ombra, se con la capriola della solitudine si può uscirne. Facciamo il possibile per affermare l'impossibile. Vado a leggere l'ultima. Solo tre? Solo tre? Sì. Se vuoi ne leggo altre. Sì, sì, no, vai, continua. Ne ho preparate solo tre, non volevo occupare tutto. No, no, questa puntata siete in due, quindi riusciamo a dedicarvi un pochino più di tempo. Mm-hmm. Allora, leggo questa. Si intitola Sì, no. Sì, nei giorni le cose e le persone si spostano, si allontanano in gruppi, consumano al sole, e ad ogni ritorno, quando una fugace idea li confonde, li si può trovare fra le proprie faccende, sempre troppe, importanti, infinite, con quella scabbia urticante, parte speciale di questi giorni, ripetenti, ad occhi bassi. Ci si può, quando va bene, incastrare, ma abbracciarsi, no. Senti Michele, tu sei fidanzato? Sono queste, sì, domande così a bruciapelo. Sei innamorato? Come? Sei innamorato? Sono addirittura innamorata. Ma che bello! Ma finalmente qualcuno che è felice. Grazie, sei una ventata. Lo sapevo che dovevo intervistarti come primo poeta. Vedi, ho avuto un'intuizione. Ho detto Michele. All'inizio dell'anno con i fiocchi, diciamo. Ah, che bello! Senti, allora La Fortunata. Dai, leggi una quarta poesia e dedicala alla Fortunata. La Fortunata si chiama Anne-Sophie ed è francese. Ah, ecco perché bazzicavi da queste parti. Ah, adesso ho capito, esatto, tutto. Ci metto un po' a capire. Forse sto ascoltando, non lo so. Speriamo. Però poi non parla ancora italiano. No, beh, ma se vuoi puoi anche fare un saluto in francese. On peut dire que cette poème que Michele va lire est dédié complètement à Sophie, son amour. Voilà, Sophie, c'est pour toi. De rien, c'est un plaisir. Adesso devo scegliere, non è quello il problema, adesso sono in crisi perché... Sei in crisi, allora magari voglio dire, allora mentre tu scegli io racconto, ho detto una cosa di te, che certo, come figlio conduttore c'è sempre l'esperienza di essere umano e che poi ti piace anche non definire compiutamente la tua attività perché scegli di volta in volta gli strumenti tecnici ed espressivi più adatti per sviluppare un'idea. Io trovo che questo sia magnifico perché lascia sempre aperta una porta, e definirsi anche in qualcosa, in una categoria, è un limite, mentre a me piacciono appunto le persone che esplorano e si divertono a cambiare in continuazione, perché la vita è una ricerca, se poi vogliamo, ed è molto bella questa esperienza che facciamo vivendo, quella appunto di cercare di ricordarci in effetti delle cose che noi sappiamo già, il nostro corpo sa già, ma noi in qualche modo al momento della nascita dimentichiamo, vuoi perché ci costringono a imparare determinate cose, perché l'educazione è molto rigida e molto ferrea e perché forse non sempre tutti sono fortunati a incontrare delle persone che sanno amare. Quindi l'esperienza della vita io credo che sia proprio questo, ricordarci quello che noi sappiamo già, che è nascosto dentro al nostro cuore, e tramite queste esperienze che tu stai facendo, espositive, video, ho raccontato appunto dei tuoi cortometraggi, delle tue così rappresentazioni, partecipazioni, credo che sia un ottimo sistema per ricordarci, in modo particolare per te, ricordarsi quali sono appunto qual è la nostra provenienza, da dove veniamo, chi siamo e perché siamo al mondo. Quindi sei trovato la poesia, ti ho dato un po' di tempo. Sì, l'ho trovata. Benissimo, allora la leggiamo. Sono d'accordo con quello che dici, sì, non avrei altro da aggiungere. Sono, credo che la libertà sia questo. Qui sentiamo la smania crescendo nel tempo, perché da bambini non abbiamo bisogno, in quanto ce l'abbiamo, nel senso che non abbiamo di solito tendenzialmente una privazione, a parte purtroppo alcuni casi, però alcune parti del mondo, però diciamo se queste cose vengono durante la vita, si sovrappongono cose che danno appunto questa, cioè, imparare a gestire la frustrazione, le proprie mancanze, le proprie debolezze. Questo diciamo che è un percorso che bisogna fare molto, credo seriamente, serve molta serietà, sì, nella vita, anche se è vista come una cosa, non so come mai, negativa in un certo senso, no? La serietà? Perché sembra precludere la felicità o il divertimento o il benessere, mentre invece secondo me è proprio il contrario. È vero, sì. E attraverso anche una forte dose di, a volte di, vorrei averla, di disciplina, neanche di più, ma propria, non imposta, no? Certo. Proprio per riuscire nel trovare quello che veramente siamo e quello che veramente, di cui veramente abbiamo bisogno. Giusto. Sempre rispettando ovviamente gli altri. È molto difficile, però va fatto. Ecco. Bene. Ho trovato una poesia. Dai, leggi. Si intitola Ciao Picasso. Mi è dinanzi nelle prime giornate di sole, fresco. Copre la luce, si vive del suo tempo, ma per incanto. Nulla è avanzato per noi, mi approprio del suo momento. La giovane poesia si riscalda nel mio petto, ma per maledizione contemporanea non arde. Perché la poesia non arde? Per una maledizione contemporanea. Credo che in questo momento storico ci sia un eccesso di tutto, e quindi di solito nell'eccesso non c'è mai nulla, o c'è poco, e nella confusione, nel marasma, le cose vanno cercate con ancora più con delicatezza e appunto serietà, profondità. Quindi credo che questo problema, non so poi se è il mio tempo o, però io credo che la poesia abbia bisogno di, soprattutto la poesia, abbia bisogno di una nuova voce, di un nuovo modo di ritornare ad essere un po' di tutti. Infatti apprezzo molto queste trasmissioni come la vostra, come altre esperienze culturali in Italia, all'estero, per riuscire a dare voce a una cosa che si delega sempre alla scuola, ed è completamente sbagliato, credo, perché a scuola credo che a nessuno interessi la poesia. È un interesse che anche quello nasce nel tempo, se una persona ha una vita interiore e si pone delle domande. La poesia è uno delle vie, dei mezzi più idonei per trovare queste risposte, o comunque per farsi delle domande, che sarebbe già qualcosa, no? Come diceva la nostra amica Silvia Monti, la poesia salva l'anima, quindi intervistata Silvia tanti mesi fa, mi ricordo con questa affermazione, risuonò poi questa affermazione svariate volte, e Anna Maria Farabi invece, per lei la poesia, le parole della poesia sono un po' il sale, il pane, che si lasciano un po' in questa ciotola fuori dalla porta, e poi chi ne ha bisogno raccoglie e si ciba in questa ciotola, e quando la ciotola è vuota le sono persone, assolutamente d'accordo, le persone poi stanno male. È vero che la paura mangia l'anima, è vero che la poesia la cura. La cura. Bene, allora senti Michele, intanto auguri per questo tuo amore con Sofia, che speriamo presto di conoscere, anche se fate un salto qua a Bruxelles. Ti ringrazio. Buonasera. E insomma il tuo MM Michele Morando, primo poeta del 2010 alla tela sonora di Radio Alma, direi che è stato un grandissimo così inizio, un début. E poi invito i nostri amici radio, grazie a te, invito i nostri amici radioascoltatori a andare poi sul tuo sito www.desiderioumile.it per leggere un pochino, credo, poi il tuo blog e quello che tu lasci giornalmente, settimanalmente, alle persone che si interessano di poesia. Quindi un grande abbraccio, grazie. Ci sentiremo grazie, comunque grazie presto. Buon anno. Ti aspettiamo, auguri e auguri, auguri. Ciao. Ciao Michele. Ciao, buonasera. Bene, ciao. Allora, cari amici, che dirvi, che è stato direi un grande inizio, poi facciamo tutti i nostri auguri a Sofia e a Michele, e quindi prima di passare al progetto di Case Minime, ce lo faremo raccontare da Mauro Lovi, direi, se vogliamo, dalla regia mettere un altro brano. Di solito abbiamo i Double Sense, ma chissà se iniziamo l'anno con... Double Sense. Questa ragazza innamorata, bisogna che li conosciamo, questi Double Sense prima o poi li dobbiamo conoscere, perché io vorrei capire cosa c'è dietro. Sono bravi, ma noi abbiamo tantissimi gruppi che sono altrettanto bravi, ma i Double Sense non si capisce, c'è un legame terreno, non lo so. Paolo, esprimi, di qualcosa, mi guardi. No, non mi fare domande. Non ti fa. Oh, vabbè, che risposta! Ancora peggio, non fare domande. Vabbè, lasciamo il mistero per i nostri amici radioascoltatori. Allora, restate con noi, un po' di musica e poi di nuovo l'intervista. A dopo. Thank you. carissimo, cari amici della Tela Sonora, benvenuti di nuovo con noi. Abbiamo finalmente Mauro Lovi con noi al telefono. Ciao Mauro. Ciao. Senti, allora, io ho presentato il progetto Case Minime, ho letto parte della bellissima presentazione che ho trovato sul sito, e adesso con te magari diciamo anche, facciamo anche qualche nome di giovane artista che ha partecipato a questo progetto e magari... Sento un pochino male. Purtroppo, guarda, io invece ti sento benissimo. Allora ti lascio, ti cedo il microfono e ti faccio parlare. Se ci vuoi raccontare un attimino questo progetto, io ho detto a grandi linee come è nato, il perché, un progetto d'arte a responsabilità sociale, ma magari se ci racconti con le tue parole questa idea, che è l'idea di una solida casa, e la solita cosa sono le solite case, sono le solide cose, che trovo bellissima come presentazione di Case Minime. Sì. Allora, raccontaci un po' di questa tua idea e anche che cosa fai nella vita, se tu sei un architetto, se sei un artista, chi sei innanzitutto? Beh, sono un architetto che ha studiato architettura, si è laureato, ho scritto all'ordine e sono da diversi anni che faccio professione, però contemporaneamente faccio altre cose, dipingo, faccio illustrazione grafica. È qualche anno che mi piacciono riunire artisti, mm-hmm. mi piace riunire artisti e lavorare con loro. E Case Minime è un po' un'occasione per fare un'opera corale facendo partecipare delle individualità. Mm-hmm. Quindi ho chiamato diversi amici, poi altre persone che conoscevo di tutte le età, di tutte le formazioni, da architetti a pittori a fotografi eccetera, sì. E è venuto fuori questa collezione, chiamiamola così, questo nucleo centrale di una città possibile, quindi virtuale, che vorrei che facesse un pochino di itinerari per l'Italia e non anche per l'Europa, insomma. E noi ti invitiamo a Bruxelles con queste Case Minime, perché è troppo bello. E sì, anche perché poi dopo ti lascio parlare, poi ti racconterò invece di un'idea che ho avuto io qualche giorno fa, e queste casette mi hanno anche un po' ispirato. Quindi senti, ma parliamo, tu nel tuo blog lasci un bellissimo augurio e parli di Epifania del donare, che vogliamo appunto la città sia solidale. Allora, che cosa c'è dietro? Perché un architetto costruisce case. Case Minime è anche, secondo me, io l'ho vista così, un modo per sensibilizzare le persone, la solidarietà, il fatto che tutti abbiano risposto a questa tua chiamata e abbiano in qualche modo costruito la loro piccola casetta, che è una casetta utopica, perché è una casetta dove nessuno può vivere, però una casetta che rappresenta, se vuoi, l'anima della persona che l'ha preparata. Sì. Ecco, allora, che cosa vuoi dimostrare con Case Minime? Qual è il tuo scopo? Oltre al fatto di farla girare, di andare in giro per il mondo, ma dove vuoi arrivare con questa tua idea? Appunto, un'opera corale. Uh-huh. Quindi a fare una città dove ci si trova in tanti e per uscire un pochino e mettere insieme tutti gli egoismi per fare una cosa un pochino più corale, più partecipata, di scambi, senza questi nelle scelte non c'è un'ideologia, una linea come si può dire, una linea artistica, non c'è solamente la passione per quello che si fa e la voglia soprattutto per farla, no? Poi mm-hmm. è diciamo il confronto che decide quali sono le cose più interessanti, quelle più un pochino più diciamo usuali, però ecco, in linea di massima questi 69 diciamo partecipanti hanno dato tutti una versione veramente unica di ogni, per ognuno, no? Con, mm-hmm. con i, tutti i linguaggi possibili. E questo cioè proprio è come è stato come stappare una bottiglia di champagne con tutti i tutte le bollicine che vengono fuori, ognuno c'ha la sua casetta. Raccontava che faceva mm-hmm. diverse prove, diverse cose, no? Per poter poi ecco, la cosa che ho visto è passione, partecipazione e entusiasmo, ecco, questo è una grande curiosità quando arrivavano tutti i lavorati per vedere come erano stati fatti, ecco. Certo. Tu parli anche di energia felice, propositiva, per mascherare un po' questa nube cupa. Tu pensi che la casa, al di là del fatto che stiano succedendo cose abbastanza gravi in Italia, un po' come all'estero... Scusami, perché ti sento veramente... Posso cambiare okay. il telefono? Sì, aspetta che proviamo ad alzarlo, proviamo ad alzare noi i microfoni. Allora dicevo, nonostante tutto quello che... Mi senti adesso? Sì, sì. Un po' macchino meglio. Nonostante tutto quello che sta succedendo in Italia, no? Abbiamo visto durante le feste parecchi disastri, persone che hanno perso la casa, non solo con i terremoti, ma inondazioni. Quindi c'è una speculazione, mi senti? C'è una speculazione abbastanza importante, abbastanza così devastante. Tu, case minime, l'hai già proposta alle varie amministrazioni locali? Hai già sensibilizzato i politici o le persone che comunque sono atte a prendere decisioni a Lucca? Oppure la tua attività è puramente di architetto? Ma io in questo caso non è di architetto in senso proprio più... Sì. In primis proprio, sì. No? Mm-hmm. Quindi non è una cosa, diciamo, addirittura sai il Tirreno, il giornale di Lucca. Sì, no? Sì, conosco. Lo conosco. L'ha messo nella rubrica urbanistica, no? Certo. Capito? Come articolo di quando per l'inaugurazione, l'ha messo nella sezione urbanistica, no? Quindi non so se era stata una svista, no? Per... No, io direi invece che è proprio azzeccato, perché tu parli di energia felice e come sì. diceva Le Corbusier, l'urbanista è un po' la persona che si deve preoccupare del fatto che l'uomo possa vivere una vita felice nonostante certo. viva in una città. Quindi io direi che è azzeccatissimo. Per quello che ti dico, le tue casette sono in qualche modo legate a quanto sta succedendo in un piccolo villaggio vicino a Anversa, che si chiama Döll, scritto, pronunciato un po' alla fiamminga, ma Doel si scrive. Sì. Questo villaggio è stato visitato anche da Michelangelo Pistoletto ed è al centro dell'attenzione un po' politica fiamminga, perché le case degli artisti, delle persone che abitano, sono piano piano rase al suolo nella speranza di distruggere questo villaggio per far sì che l'acqua ritorni a prendere posto rispetto alla terra del villaggio e ampliare quindi il porto di Anversa. Devi sapere che però il porto di Anversa in questo momento sta attraversando, come in tutti i porti, crisi, perché i movimenti non giustificano la costruzione di nuovi deck per accogliere i container, e quindi questo villaggio rischia di essere distrutto per poi in effetti una bolla così di sapone. Quindi ci sono delle persone che si sono attrezzate e stanno cercando... Beh, ve lo racconto lo stesso, poi magari ritelefoniamo a lui. Riesci, Paola, se ti do il numero? Aspettate. Magari Paola viene un attimo di qua a prendersi il numero di telefono. E dicevo che a Döll sta succedendo proprio questo. Un villaggio rischia di essere distrutto per costruire i nuovi deck del porto, ma in fin dei conti cosa vuol dire? Vuol dire che noi diamo spazio al business utopico, perché non è detto che poi il porto in sé possa veramente giustificare questa distruzione e quindi dare spazio per i nuovi deck. E poi cosa succede? Che le persone che abitano in queste case si vedono distrutte praticamente non solo la propria casa, ma anche il villaggio, con tutta la storia che c'è dietro. Quindi l'idea che era venuta a questa mia amica Evan van Tulden e credo anche ad altre persone che stanno lavorando nell'ambiente artistico, è proprio quella di salvare il villaggio e proporre un villaggio possibilmente sustainable village, quindi un villaggio che riesca in qualche modo a rimanere in piedi e giustificare la propria presenza. L'idea quindi delle casette di Mauro direi che arrivano proprio così a fagiolo, perché l'idea invece che ho avuto io quando sono stata là con la tela sonora, abbiamo ripreso i poeti lo scorso maggio 2009 durante questo evento magnifico, delle poesie scritte così di getto da questi poeti che poi sono state appese ai muri delle case, quindi una esposizione, un'installazione non provvisoria fino a quando queste case non verranno abbattute. Dicevo appunto, le casette, potrebbe essere un'idea quella di salvare alcune case e fare in modo che venissero sospese, poi da studiare come, su dei pilotini oppure su dei ponti, ci sono diversi sistemi, o su dei pilastri, e l'acqua quindi potesse in qualche modo ritornare al suo stadio naturale, quindi invadere di nuovo il polders, e poi il porto quindi potesse in qualche modo usufruire degli spazi. Quindi non si sa comunque cosa succederà di questo villaggio. Adesso magari a Mauro chiederemo poi un aiuto, se vorrà in questa epifania del donare aiutare anche questo villaggio di Döll. Sta di fatto che comunque tutto questo cosa porta a pensare? Che pensate, un architetto che ha chiamato diversi artisti a partecipare a questo evento, tutte persone che comunque hanno un lavoro, devono comunque pensare alla loro famiglia, alla loro carriera, ma si sono sentite di partecipare in modo artistico. Quindi la poesia della tela sonora, in qualche modo, non solo attraverso le parole viene espressa da scrittori e poeti, ma anche da artisti, da architetti, in questo caso urbanisti. Quindi, proprio come diceva Le Corbusier, anche l'urbanista può diventare un poeta. E ci tengo a sottolinearlo, perché la tela sonora, in effetti, è proprio la ricerca di tutto questo. Quindi speriamo di ritornare magari in contatto con Mauro, direi di sì. Perfetto, ce l'abbiamo di nuovo in linea. Mauro, ci sei di nuovo? Sì, sì. Ecco, allora io ho raccontato un pochino la storia di Döll, che sta cercando così di essere salvata dagli abitanti, e quindi queste tue casette, ti chiederemo magari poi una mano per aiutarci a pensare a costruire delle casette sospese, non si sa bene come, adesso poi studieremo, con dei pilotini come Le Corbusier oppure proprio con dei ponti, per poi lasciare lo spazio invece del polders che ritorni all'acqua, e quindi il porto possa invadere con la propria acqua e con i propri deck lo spazio del polder. Bello. Quindi sì, infatti, ma poi ti chiamo, magari ne parliamo così in modo. Invece raccontaci, perché abbiamo ancora 5 minuti di tempo, raccontaci invece, poi magari diremo anche chi ha partecipato. Io direi che sarebbe il caso di parlare per esempio di Silvia Baldocchi, Simona Romanini, Pietro Soriani, Urano Parma, Michele Martinelli, Darin Raji, Jung Wei Jung, Marcantonio Lunardi, tutte queste persone che hanno risposto in modo così semplice alla tua chiamata corale. Raccontaci ancora qualcosa di questo Case Minime, e quali sono i tuoi progetti futuri? Allora, Case Minime diciamo procede per quartieri, no? Nel senso che sto lavorando per fare il prossimo quartiere a Bari, cioè quindi fare la prossima installazione, mostra a Bari, coinvolgendo artisti, diciamo per la maggior parte della Puglia, della Basilicata, eccetera, e con una percentuale sempre di artisti da tutto il mondo, da dove così che gli incontri della vita ci danno, no? Sì. Quindi dovrebbe essere fatto al Teatro Margherita, quindi abbiamo dei contatti, stiamo lavorando per poterlo fare lì. E quando succederà tutto questo? Hai già una data? Si stava lavorando per aprile. Buono. Cioè, una durata di una ventina di giorni, un mese, e poi si cercava altri liti, certo. per arrivare poi a dicembre del 2010 a Viareggio. Ok. Perché, e lì ti vengo a trovare, perché è doveroso. Perché questa diciamo iniziativa parte anche con diciamo istinti, chiamiamoli, solidaristici, no? Sì. Parte dell'incasso probabilmente viene devoluto a chi ha perso la casa. Sì, ecco, la cosa simpatica è che non vengono vendute le case, le case rimangono come opera unica, una volta che uno ha aderito diventa un corpus unico, indivisibile, e vengono affittate con un certificato, ed è quello che diciamo che costa 30 euro abitare una casa e 15 vanno agli abitanti, cioè di Viareggio, che hanno subito dei danni da quel disastro dell'esplosione della cisterna, e il rimanente serve per mandare avanti l'associazione, questi tipi di iniziative, no? Okay. Quindi ecco, diciamo, a Viareggio faremo un po' il punto dopo un anno di quello che è stato fatto, ecco. Benissimo. E poi continueremo con altri progetti, no, di questo tipo. Bene. Cioè, quando sulla casa, sull'abitare, su queste cose qua, ecco. Benissimo. Senti Mauro, io direi che per il momento ci possiamo lasciare, ti ringraziamo di questo intervento. Hai avuto un'ottima idea, anche perché tu parli sempre di solidarietà, ma soprattutto quello che a me piace è che la casa è itinerante, mobile, è una brand mobile, e è importante costruire qualcosa di solido restando però liquidi, e questo io trovo che sia una cosa magnifica, il fatto di non aderire, di non attaccarsi a nulla, ma di rimanere liquidi, quindi di andare ovunque, l'acqua arriva da tutte le parti. Ti ringraziamo, ci sentiremo invece noi al telefono, e comunque l'appuntamento sarà in radio invece per raccontare l'esperienza di Bari e poi di Viareggio, quindi in questo tuo percorso di brand mobile. Grazie ancora per aver partecipato, auguri, e saluta tutti gli artisti di cui appunto qualche nome sono riuscita a fare, e tutti gli altri comunque sono nel nostro cuore. Grazie, grazie, e a presto. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Benissimo, cari amici, allora, visto che parliamo di casa, io vi ho detto che volevo leggervi una poesia, ve la leggo. La poesia è tratta da Dolore della casa di Sebastiano Aglieco. Dio, che ci fai spezzare il pane e bere il vino, ogni giorno lo spezzi insieme a noi, ogni giorno per tutto quello che non capiamo. La casa è aperta, ogni cosa sottratta alla sua condanna, le tue medicine, i vestiti piegati, i macchinari che sostengono il corpo. Bene, chissà che magari questo poeta Sebastiano Aglieco possa un giorno partecipare alla Tela Sonora. Vi ricordo che prima abbiamo detto che avevamo mandato un pezzo di Double Sense, invece non erano i Double Sense. Paola, chi erano? I Casma. Sei talmente emozionata, oppure l'ho fatta emozionare io che ci siamo così inguaiati. Invece adesso abbiamo alcuni minuti, vogliamo chiudere salutando questa prima puntata, dandovi appuntamento venerdì prossimo, probabilmente con Beppe Grillo, perché Beppe Grillo scrive poesie, questo è un blog, no, probabilmente non scrive poesie, ma è invitato alla Tela Sonora perché ha qualcosa importante da dire qui a Bruxelles. Il 22 gennaio Certi Sistemi, e il 29, ricordiamoci, l'evento Dale Zaccaria e Barbara Gozzi con Intorno al corpo di Luana Anglaro, e con la proiezione della, diciamo, dello special di Dale Zaccaria e Francesca, sua amica, che non parteciperà ma che comunque fa parte del progetto. Vuoi mandare un ultimo pezzo? Questa volta chi sono? Come vuoi. No, lo dici tu perché non oso più parlare. Dai, che cosa mandiamo ai nostri amici radioascoltatori che sono fedeli, che ci ascoltano sempre? Beh, io direi di concludere in bellezza. Va bene, concludiamo in bellezza. E vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Restate con noi, vi ringraziamo, ringraziamo tutti, ringraziamo anche il nostro amico Julien, che oggi ha partecipato in silenzio accanto alla nostra regista. Grazie Paola per esistere. Manda il Grazie pezzo, salutiamo e vi diamo appuntamento venerdì prossimo, ore 20. Bacio a tutti, ciao ciao. 21h.